A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. C'è il castello dove è possibile organizzare un matrimonio vista lago e c'è un ristorante che è un pezzo di patrimonio UNESCO. C'è l'azienda agricola nella campagna toscana e ci sono le cliniche private nel cuore della Sicilia. Ci sono tante imprese di costruzioni, ma pure negozi, supermercati e società di vario tipo nell'ormai ampio tesoro tolto negli anni ai boss di mafia e gestito dall'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati. Un tesoro non sempre però sopravvissuto alle procedure giudiziarie e agli iter burocratici, se è vero che su 1.708 aziende sottratte ai clan, solo 60 sono tuttora effettivamente operative sul mercato. Sono questi gli ultimi dati dell'agenzia, nata nel 2010, che ha volta ora rischia però il collasso, sommersa da un'onda di nuove pratiche e altro lavoro per l'arrivo a pioggia pure delle carte sui sequestri, oltre a quelle delle confische. Esiste dunque il pericolo che la storia dell'aggressione alle ricchezze, principale strumento nella lotta alle mafie, possa degenerare in una successione di fallimenti più che di successi? Una prospettiva che lo Stato non si può davvero permettere e che anzi deve in ogni modo evitare per il nostro bene. Titolo dunque del viaggio per i caratteri di Chiare Lettere che Alessandra Coppola, collega del Corriere, e Ilaria Ramoni, già referente di Libera, hanno compiuto. Siamo ad un passaggio, ad una svolta decisiva, appunto far sì che questa svolta decisiva possa venire in maniera concreta, dobbiamo ragionare in termini di risorsa economica dei beni confiscati, soprattutto in questo momento di crisi. Ecco, soffermandoci sulle aziende, perché la maggior parte delle aziende confiscate non sopravvivono? Alla fine del 2012 abbiamo 1.708 imprese confiscate, ma di queste 1.708 imprese confiscate soltanto 60 possono dirsi pienamente attive sul territorio, per un totale di circa 500 posti di lavoro. Questo già ci fa capire come alla grande quantità di imprese confiscate non corrisponde poi un loro effettivo e vero valore economico sul territorio. E le cause si possono, come dire, dividere in due fasi, cioè le cause che troviamo già nel momento del sequestro e della confisca poi delle aziende appunto confiscate e quelle che poi subentrano nel momento in cui diventano di proprietà diciamo dello Stato. Queste sono aziende che già vivono in un mercato drogato, molte di queste aziende magari riuscivano a lavorare perché il mafioso di turno proprietario dell'azienda imponeva l'acquisto per esempio dei materiali o la fruizione dei servizi dell'azienda al territorio. Nel momento in cui l'azienda diventa di proprietà dello Stato, spesso avviene esattamente il contrario, cioè lo stesso mafioso che prima imponeva di acquistare quel determinato prodotto in quella determinata azienda, adesso impone di non acquistare quel determinato prodotto in quella determinata azienda. Facciamo anche qualche esempio. Io farei un esempio di una diciamo azienda del commercio e una delle costruzioni. Le aziende confiscate, 471 si occupano di commercio e 477 invece di costruzioni. A me viene in mente l'esempio per esempio di un'azienda, di un supermercato confiscato in Calabria, fino a che era di proprietà della famiglia andranghetista, ovviamente funzionava e addirittura raccontiamo in alcuni punti come il controllo del territorio della famiglia mafiosa era molto specifico, sapevano chi andava a comprare in quel supermercato, sapevano anche a livello familiare quando i parenti traditori, se così si possono chiamare, andavano ad acquistare la frutta o la verdura per esempio al supermercato vicino. Nel momento in cui questo supermercato è stato invece confiscato definitivamente, ci ha raccontato l'amministratore giudiziario che nel giro di poco tempo ha dovuto chiudere perché nessuno più si recava ad acquistare in questo supermercato. Un esempio invece sicuramente positivo, anche perché ahimè sembra quasi l'unico esempio positivo nel panorama delle aziende confiscate, è quello della calcestruzzi Ricina in provincia di Trapani, azienda confiscata al boss Virga, ha subito tutta una serie di vicissitudini anche legali per arrivare alla confisca e per riuscire a essere gestita da una cooperativa di lavoratori, cioè gli stessi lavoratori che prima lavoravano nella dipendenza del boss mafioso, sono riusciti con molta difficoltà, ma ci sono riusciti, a costituirsi in cooperativa di lavoro, riesce ad essere anche leader nel settore in Sicilia. Queste sono due realtà differenti e in mezzo ci passano anche tutti i vari cambiamenti e travagli che ci sono stati intorno alla gestione dei beni confiscati fino alla creazione dell'agenzia, appunto. Una realtà importante significativamente e anche soprattutto simbolicamente fu istituita a Reggio Calabria nella stagione degli attentati contro i magistrati regini, un segno forte, ma allo stesso tempo è ancora una sorta di scatola chiusa a cui dover dare dei contenuti. Ecco, questa agenzia che però in questo momento rischia anche in qualche modo di andare in tilt per il troppo lavoro, perché? Oltre a quelli che di cui sentiamo spesso parlare, lo scarso numero di organi, le 5 sedi distaccate sul territorio, ci sono altri due aspetti che si può dire rischieranno di far andare in tilt l'agenzia, ovvero un allargamento delle competenze dell'agenzia. In particolare dal marzo 2012 l'agenzia si è dovuta però adesso arriveranno la prima mole di lavoro, occupare anche dei sequestri, mentre fino al 15 marzo 2012 si occupava solo delle confische definitive, delle confische di primo grado, adesso invece è competente nella gestione dei beni anche in sequestro, e poi per tutta quella che viene chiamata la confisca allargata, tutta una serie di reati non strettamente mafiosi che sono quelli elencati in uno specifico articolo che è appunto il Digitexis. Quindi a tutta la mole di lavoro che già doveva affrontare ad oggi con l'organizzazione e il personale tutto sommato esiguo, si arriverà un'altra grossa mole di lavoro che volente o nolente dovrà riuscire a gestire. A tutta questa difficoltà di mole di lavoro e anche logistica organizzativa si potrebbe supplire se ci fosse una vera e solida volontà politica di far funzionare l'agenzia. Quindi sorge anche il dubbio che al di là della spinta iniziale, che è stata molto forte, la volontà politica evidentemente non è così convinta e così attenta nel voler far funzionare veramente l'agenzia. Le aziende devono stare sul mercato, dichiarano i sindacati come Salvatore Lobalbo della Fillea, che chiedono la presenza anche del Ministero dello Sviluppo Economico all'interno dell'agenzia. Bisogna parlare lo stesso linguaggio che si parla in tutte le altre imprese. Non può essere che l'antimafia sia solamente un problema di cuore o un problema civile. È un problema economico al pari di tutti gli altri. Senza alcun dubbio, e devono stare sul mercato, ed è questa l'unica possibilità che hanno di sopravvivenza. Però fino adesso le dice non è così. Per quello che l'agenzia, il direttivo dell'agenzia sta facendo. Perfetto, allora. Con il tribunale abbiamo fatto un po' di cose. L'impresa Zoom, che per esempio assieme con l'impresa di Vincenzo di Caltanissetta, questi sono, stanno costruendo una cinquantina di alloggi con un progetto importantissimo e positivo, e hanno assunto lavoratori in questo caso. Perché una ha messo la concessione, un'altra ha messo i soldi, sono due imprese sequestrate queste, dove gli amministratori riescono a fare economia. Cioè quello che non entra bene nella testa, ed è un problema di volontà ovviamente, non è un problema di capacità, di volontà, è che nel momento in cui lo Stato fa la confisca, bonifica, certifica che i mafiosi non sono più in quell'impresa, queste imprese li deve ridare al mercato. Riteniamo che il Ministero delle Attività Produttive debba incominciare a intervenire, a interessarsi, perché altrimenti questa non posso, nessuno comprerà un'impresa con 200 lavoratori, per essere chiari. Quelle dei beni confiscati possono essere dunque anche storie di occasioni mancate o di sprechi, quando non storie opache, come quelle che hanno contribuito allo scioglimento per mafia di Reggio Calabria, storie di ville simboliche rimaste lì per anni ad ostentare il loro potere mafioso, come il bunker di Archi dei Condello, sgomberato solo 8 anni dopo la confisca. E l'inerzia delle amministrazioni comunali, si scrive in un duro appunto della Direzione Nazionale Antimafia, veniva camuffata da una nota del maggio 2012 inviata dal Comune all'Agenzia per i Beni Confiscati, nella quale, contrariamente al vero, si legge in questa nota riportata nel libro Per il nostro bene, si comunica che l'abitazione risultava ormai libera. Un caso clamoroso dunque, ma non isolato, un caso difficile come pure quello del castello di Miasino in Piemonte, visitato da Ilaria Ramoni e Alessandra Coppola. La storia del castello di Miasino è una storia molto particolare, bene confiscato definitivamente, confiscato alla famiglia Galasso, quindi alla Camorra. Sta di fatto che il bene è confiscato, è di proprietà dello Stato, ma ad oggi è ancora gestito materialmente dai familiari del prevenuto, e bisogna precisare, non hanno avuto nessun problema con la giustizia, ma ad oggi quel bene confiscato di proprietà dello Stato non è ancora entrato materialmente in mano allo Stato, e qui si possono fare diverse ipotesi, anche matrimoni, come dire, programmati per i prossimi anni, quindi questo è un po' un controsenso. E voi, per raccontarlo, avete, diciamo così, dichiarato di dover organizzare un matrimonio? Noi siamo arrivate proprio mentre stavano iniziando ad apparecchiare per il matrimonio della sera, hanno illustrato tutta una serie di possibilità per organizzare il nostro matrimonio, e dobbiamo assolutamente dire che il posto è stato tenuto molto bene, è molto bello e sembrava anche particolarmente efficiente, quindi è stato come un po' un cortocircuito tra l'idea di un bene confiscato, di fatto occupato, e poi in realtà quello che abbiamo visto veramente. Un caso che rende bene l'idea della complessità della gestione di questo tesoro da parte dell'agenzia, che a detta del suo primo direttore ora però sta perdendo il suo spirito iniziale. A ciascuno il suo. €24.800.000. Nell'ultima relazione avanza questa stima l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alle Mafie come valore solo per 162 immobili dei 3.995 in gestione. Una piccola manovra finanziaria dunque, come ammette l'attuale direttore dell'agenzia, Giuseppe Caruso, e questo senza contare le tante aziende di ogni genere finite nel patrimonio dello Stato, come denunciato più volte da A Ciascuno il Suo, troppo spesso non sopravvivono. Capita così che si fa clamore l'ipotesi di vendita di Suvignano in Toscana, 700 ettari nel Senese, parte del maxi sequestro Piazza. Tante altre società in silenzio annaspano, insieme ai loro dipendenti, che spesso nulla hanno a che fare con i clan. E sono almeno 18.000 gli operai che hanno perso negli anni il lavoro nel settore delle costruzioni, secondo i calcoli della Fillea, il segretario generale Salvatore Lobalbo. Noi abbiamo fatto un calcolo sulle 6.000 imprese che partono col sequestro, c'erano circa 20.000 lavoratori edili. Di queste 20.000 lavoratori edili, a oggi ci sono occupati circa 2.000 lavoratori edili. Quindi solo nella filiera delle costruzioni almeno 18.000 persone hanno perso il posto di lavoro. Sì, qualcuno potrebbe dire, ma tra queste 18.000 c'erano anche parenti o presunti mafiosi, giusto? Quali posti di lavoro ora state cercando di salvare? Gruppo Aiello Immobiliare Sansone, Raffaello, Mannina Group di Trapani, Calcestruzza e Ricina, ma qua c'è una cooperativa però che soffre. Zummo, Di Vincenzo, Cava Buttitta. La legge prevede che l'agenzia lavori su delle linee guida. L'agenzia, dopo 4 anni, queste linee guida non ci va. Se noi abbiamo il gruppo Piazza, le ho detto poco fa, l'immobiliare Strasburgo, è stato il bancomat dell'agenzia, che aveva bisogno di 1 milione di euro cash, li prendeva legalmente, che sia chiaro, dalla cassa dell'immobiliare Strasburgo, per dire che è stata un'impresa questa gestita ottimamente e che oggi l'agenzia tende a fare uno spezzatino, cioè a dare 20 alloggi al comune, un palazzo alla regione, e non invece a pensare all'impresa. E a confisca definitiva ci è andata recentemente il gruppo Aiello, 400 dipendenti, a due settori, uno che è la sanità privata con la clinica, la famosa Santa Teresa, clinica. Due con l'Ati Group del settore edile, partita nel 2003 con 130 edili e 20 lavoratori metalmeccanici. E noi parliamo di imprese complesse. L'agenzia non se ne occupa come se fossero imprese, cioè non se ne occupa dal punto di vista economico-produttivo. Dopo 30 anni di aggressione ai beni delle mafie e quasi 20 dall'introduzione della norma sul loro riutilizzo sociale, la svolta sta dunque nella necessità di inserire la lotta alla mafia in modo organico nelle politiche di sviluppo economico. E questo proprio per il nostro bene, titolo del saggio inchiesta di Alessandra Coppola e Ilaria Ramoni. E proprio pensando alle tante aziende che lo Stato non può permettersi il lusso di far morire, che l'ex direttore dell'Agenzia dei Beni Confiscati, il prefetto Mario Morcone, ora alla presidenza del Consiglio, mette in guardia dal rischio di perdere lo spirito iniziale. Io credo che sul tema delle aziende in particolare, che poi è il tema più significativo, si scontrano due modi di pensare l'agenzia. L'agenzia si chiama Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. La mia impressione è che invece in tempo più recente si sia puntato solo sulla destinazione delle aziende e quindi, voglio dire, alcune che finiscono inevitabilmente in liquidazione, altre che riescono a sopravvivere ma sono poche, come lei stessa notava. Quindi un ripensamento va fatto sul tema della amministrazione delle aziende, amministrazione che può avvenire attraverso una partnership importante delle grandi associazioni di categoria. E infatti ci sono stati anche già siglati degli accordi proprio con Confindustria per la gestione di manager. Il problema è andare un attimo oltre i protocolli, perché una delle vicende più note è quella che è sequestrata un'azienda. Chi ha subito il sequestro si colloca spesso anche a pochi chilometri e naturalmente riesce a trasportare i clienti di quell'azienda immediatamente nel nuovo luogo dove ha aperto una nuova attività e quindi naturalmente poi così deperiscono rapidamente. Lei paragona il patrimonio del mano all'Agenzia dei Beni Confiscati ad una piccola IRI. Questa è la mia idea, è una presenza dello Stato in chiave moderna, quindi rinnovata con la partnership non solo delle grandi associazioni di categoria ma anche delle istituzioni, parlo di Libera, parlo di tanti altri attori della società civile che oggi sono protagonisti in questo spicchio di attività. Molti operatori, ad esempio, ritengono di non essere del tutto soddisfatti dal funzionamento di questa agenzia, di cui pur sottolineano e rivendicano l'importanza e la portata anche simbolica, e soprattutto pongono l'attenzione sulla sua organizzazione strutturale, ma anche sul suo funzionamento. Lei che cosa ha visto dall'interno? Beh, onestamente sarebbe ingiusto, non tener conto che siamo su un terreno particolarmente complesso e l'agenzia per nascere naturalmente sconta anche un sottodimensionamento, solo in tempi recenti ha avuto le 100 unità, siamo partiti all'inizio con 30 unità, manca molto spesso personale qualificato sotto il profilo aziendale, quindi commercialisti. La complessità dei problemi che si pone all'agenzia rende necessario un tempo non brevissimo per andare a regime. A mio avviso quello che riscontro nel tempo recente è proprio questa sorta di piccolo passo indietro. L'agenzia si chiama Agenzia per l'amministrazione e la destinazione. Allora tu per amministrare e per lanciarti nella gestione e nell'amministrazione delle aziende che vengono confiscate hai bisogno di avere passione, hai bisogno di avere cuore, hai bisogno di anche sporti, altrimenti si fa solo la destinazione degli immobili, e se si fa solo la destinazione degli immobili io credo che si tradisce un po' lo spirito con il quale nasce l'agenzia. Un'eccessiva burocratizzazione. Non volevo usare questo termine, certamente l'amministrazione comporta la necessità di avere visione, prospettiva. È favorevole alla gestione, a che si prosegua con la strada dell'agenzia, in passato è stato il commissario straordinario, poi si è passati al demanio, poi ancora c'è stata una fase di interregno fino alla creazione nel 2010 dell'agenzia. L'agenzia è stato un grande passo in avanti, su questo non credo che nessuno possa metterlo in dubbio, è stato un grande passo in avanti, una grande opportunità. Non serve più l'amministratore giudiziario che fa il ragioniere, serve un amministratore giudiziario che abbia anche la sensibilità imprenditoriale per portare avanti anche un disegno d'accordo con l'agenzia e col magistrato, naturalmente di sviluppo, di valorizzazione di quel bene. Per tante storie positive di gestione di questi beni confiscati e poi appunto assegnati ai più vari utilizzi, ci sono anche delle storie opache. Assolutamente. anche a lei sarà capitato di doversi occupare di un caso simbolo come quello di Suvignano, di cui adesso si torna a parlare perché c'è un progetto, l'ipotesi della vendita, fa parte del mega sequestro. No, guardi, Piazza. Non ho, devo dire, atteggiamenti precostituiti rispetto alla vendita o meno. Dico semplicemente che Suvignano è il gioiello di uno dei gioielli di famiglia, no? Insieme a qualche altra cosa, a qualche albergo. Facemmo una riunione, ricordo bene, un tavolo con la regione Toscana e con la regione Sicilia, che poi sostanzialmente rivendicavano la disponibilità di quel bene. In quella sede, col prefetto anche di Siena, si avviò una strada di gestione comune, cioè una sorta di consiglio di amministrazione in cui erano presenti le varie componenti, le varie sensibilità, che avrebbe potuto poi in partnership con le grandi associazioni dar luogo a progetti importanti che la Toscana aveva già nel cassetto, ma che magari anche la Sicilia avrebbe potuto proporre, facendo di Suvignano una grande opportunità anche simbolica di riscatto del territorio. La mia impressione è che si voglia rapidamente fare cassa con il gioiello più brillante che conserviamo in cassaforte. Non che questo sia di per sé da criticare, se non nel contesto in cui le dicevo. Non basta fare cassa con Suvignano, bisogna occuparsi di tutti i beni, degli alberghi che non sono stati ancora presi. Anche se è di Suvignano uno dei gioielli di cui si parla di più, ecco, lei che invece questa realtà la conosce molto bene, ce ne saprebbe indicare qualche altro per cui è preoccupato, diciamo? Per esempio c'era un albergo, il Sigonella Inn, che è un albergo 4 stelle in provincia di Catania, sempre pieno, ci sono spesso famiglie americane, e non credo che sia stato preso nonostante siano stati spediti tutti i gradi di giudizio. C'è un altro albergo in Piemonte, il Castello di Miasino, ci sono i 220 ettari del processo Spartacus vicino Capua. C'era da fare un accordo con la Banca d'Italia sulla ex Sicilcassa. Quindi tante questioni aperte. Le questioni sono tante, onestamente le questioni sono tante. L'agenzia è piccola, leggevo una dichiarazione del viceministro Bubbico che condivido molto, fondo di rotazione che consenta alle cooperative, a tutti quelli che vogliono rimettere in moto un'azienda in un contesto di legalità, di avere del credito, perché questo è un altro dei grandi problemi. Questa è un'altra questione sulla quale, per esempio, ci deve dare una mano l'ABI, ci devono dare una mano le banche. E voi che ne pensate dei beni confiscati alla mafia? Siete favorevoli o contrari alla loro vendita? Se vi va, scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!